Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Ebbene, per essere più intelligenti le città dovranno consumare meno energia e ridurre le emissioni, ed è del tutto evidente, l'abbiamo detto tante volte, come a questo fine la partita del risparmio energetico negli edifici sia assolutamente cruciale. Come ricordavamo ieri, oggi è ampiamente disponibile una tecnologia, la pompa di calore, che permette sia di condizionare che di riscaldare case, uffici e quant'altro. Diciamo che, facendo una metafora automobilistica, potremmo dire che pompe di calore e condizionatori sono esattamente la stessa automobile, che in un caso procede in avanti e nell'altro va in retromarcia. Oggi queste macchine, le pompe di calore, si stanno diffondendo nonostante vari ostacoli legati a regolamenti tecnici un po' tignosi, a un sistema di tariffazione elettrica non molto favorevole, ma ci sono anche ostacoli legati a una scarsa cultura progettuale nell'uso di queste macchine. E di questo parliamo con un super esperto di climatizzazione, il presidente di ICAR, Michele Vio. Buonasera, Vio. Buonasera. Allora Michele, ci conosciamo benissimo, ci diamo del tu, facci qualche esempio. Io direi che possiamo partire da una delle questioni più importanti, uno degli ostacoli più grossi, si dice, alla diffusione delle pompe di calore, che lavorano molto male, diciamo così, coi termosifoni, che sono però il sistema di riscaldamento ampiamente più diffuso in Italia, soprattutto negli edifici con qualche anno sulle spalle. Invece ci sono degli accorgimenti per cui qualcosa si può fare. Si dice addirittura che non possono lavorare con i radiatori, ma questo è sbagliato. Lo si dice perché si pensa che il radiatore possa essere alimentato solamente a 70 gradi di temperatura. Nella realtà il radiatore è alimentato a 70 gradi solo nelle condizioni più critiche. Dal 1976, data d'ingresso della legge 373, che tutti i condomini dovrebbero avere una regolazione cosiddetta climatica che abbassa la temperatura di alimentazione. Quindi quella dei radiatori dimandata al termosifone, la temperatura dell'acqua che entra nel termosifone, in funzione della temperatura dell'aria esterna. Certo. Per cui già a 0 gradi, ad esempio, il radiatore potrebbe essere, anzi è, alimentato a temperature compatibili con quelle delle pompe di calore. A marzo, in una giornata come oggi, l'acqua al radiatore entrerà inferiore ai 40 gradi, per cui la pompa di calore lavora benissimo. Non solo, in una leggera ristrutturazione basterebbe cambiare gli infissi, fare un piccolo cappottino oppure banalmente aumentare gli elementi dei radiatori per poter far funzionare il radiatore con le pompe di calore in qualunque condizione. Ecco, tutto questo perché, non l'abbiamo spiegato ma lo diciamo rapidamente adesso, diciamo così che le pompe di calore, soprattutto quelle elettriche, perché poi c'è tutta un'altra categoria che è quella delle pompe di calore a gas, soffrono quando la temperatura esterna è molto bassa. Molto spesso però una pompa di calore in tutte le stagioni intermedie è però invece sufficiente, perché non ha bisogno di scaldare moltissimo l'acqua e non soffre questa situazione. Però poi a un certo punto il freddo arriva, lì che si fa? Facciamo subito una premessa. Il clima italiano è un clima meraviglioso per la pompa di calore in tutte le località. Quindi si può benissimo utilizzare la pompa di calore ad aria in ogni... Che è quella più economica, perché non richiede perforazioni, impianti complicati. Esatto, è quella più economica. Forse la soluzione ideale sarebbe l'acqua di falda, ma l'acqua di falda in Italia non viene mai toccata, c'è una legge. È complicatissima, infatti. Allora, una pompa di calore ad aria ha il problema che perde di potenza quando le temperature dell'aria si abbassano. Banalmente si mette una caldaia, o meglio, si affianca la pompa di calore alla caldaia esistente. Soprattutto nel clima di nord Italia, mettere una caldaia in parallelo è sempre un vantaggio. È come una ruota di scorta, si fa partire la caldaia solo quando serve nelle condizioni di emergenza, per ecco, il resto quando conviene si fa lavorare la pompa di calore. Ci sono proprio dei forti vantaggi per le conseguenze di un approccio di questo genere, che quindi mette insieme, che lavorano proprio anche contemporaneamente eventualmente queste due macchine, diciamo così. Ecco, ci sono dei grossi vantaggi in termini anche impiantistici, di semplificazione in un certo senso dell'impianto. Tu sei in grado anche di farci un esempio con qualche numero, se non sbaglio? Nel nord Italia, se noi in una villa volessimo installare una pompa di calore che coprisse la totalità del carico fino a meno 10 gradi dell'aria esterna, la pompa di calore sarebbe così grande che servirebbe un contatore elettrico dedicato a lei di 5 kW solo per la pompa di calore. Se invece ci accontentassimo di dimensionare la pompa di calore per dare l'intera potenza necessaria però a 5 gradi dell'aria esterna e integrare l'altro, tutto quello che resta con la caldaia, basterebbe una potenza elettrica un terzo rispetto ai 5 kW, quindi un kilowatt e mezzo, due al massimo. Ecco, e quindi, e anche la macchina di conseguenza è decisamente più piccola. Con il problema poi che una macchina, se è troppo grande, rischia di perdere efficienza alle, quando la temperatura dell'aria si alza e il carico diventa basso. Cioè quando lavora poco, che però rischia di essere l'80% del tempo durante l'anno questo poco, questa sì, situazione sì, qua. Bisognerebbe appunto fare una valutazione non tanto ai carichi estremi, sì, non sono nelle condizioni estreme, certo, ma proprio bisognerebbe fare una valutazione stagionale. Cioè, ecco, quando sì, uno insomma, compra l'automobile guarda il consumo medio, non guarda quanto consuma la macchina alla massima velocità. A 200 all'ora quando non ci va mai, o per diciamo sempre restare in paragone automobilistico, ma girandola al contrario, diciamo che uno non compra una Ferrari per andarci sempre a 50 all'ora, no? Esatto, esatto. Ecco, poi come dicevamo ieri ci sono queste altre tecnologie, le pompe di calore a gas, che invece sono particolarmente adatte proprio all'uso con i caloriferi, hanno altri limiti, per esempio è impossibile farci condizionamento con questi sistemi. Sì, più che impossibile, hanno un'efficienza molto bassa, sì, nel certo, periodo estivo, però nel periodo invernale hanno un'alta efficienza. Comunque quello che non ci manca sono le tecnologie, ne abbiamo e ne stanno venendo fuori tantissime, basta imparare ad utilizzarle. Ad utilizzarle bene, ecco, perché è un po' questo il punto, no? Diciamo, una pompa di calore non è una caldaia, va usata con un po' più di sapienza. È una macchina più complessa e quindi la complessità va gestita. Ma basta farsi la mano, sempre per fare gli esempi automobilistici, anche le nostre automobili sono nettamente più complesse di quelle che era una Ford degli anni 20, però abbiamo imparato ad utilizzarle e funzionano perfettamente. Grazie Michele Vio. Bene, ci fermiamo qui, appuntamento, ecco, a domani, ultima puntata della settimana, poi buona Pasqua.